con te per le donne che non si arrendono, una performance che hai studiato appositamente per oggi, perché sono materiali che fanno parte di questa antologia che hai pubblicato da poco. Sì, sono 4 stralci che vediamo se riusciamo a fare tutti, e sono dall'antologia di testi teatrali di Polvere e di Resurrezioni, edito dalla Nema Press, e tessono un filo rosso, come avevo scritto, tra queste donne che non si arrendono, che alzano la testa, anche se apparentemente sono state anche vittime in alcuni casi di violenza oppure di maltrattamenti, oppure figure come Maddalena, Antigone, che invece insomma sono grandi figure che restano sempre vive dentro. Le donne che non si arrendono, Ilaria Drago, complimenti, perché stai un po' influenzata e sei entrata in 4 personaggi diversi con pochi minuti di separazione uno dall'altro. Allora, 4 storie che vengono dalla tua antologia, libro che è uscito da poco tempo, no? In realtà l'anno scorso, che per i tempi come vanno oggi è un'eternità, però invece per i miei tempi sono tempi ancora tutti da consumare e vivere, sì, e quindi insomma con la Nema Press abbiamo avuto questi progetti, questo e poi un altro libro di poesie, però ecco, questo è il più recente. Allora, ascoltandoti, la prima domanda che mi viene in mente è la tua parola lirica, che origine ha? Ah. Anche con queste ripetizioni cantilenate, sì. Uno stile abbastanza fissato, sì, nel senso riconoscibile. Per me è musicale, è musica, infatti ci sono proprio dei momenti, spesso, molto spesso lavorati proprio con la musica, che hanno una ritmica molto, molto precisa. Però ecco, la parola stessa è musica dell'anima, del cuore, no? E a me piace dire che tutto il mio teatro è un gesto poetico, che poi appunto è la parola, ma è anche il gesto, il suono, il gesto, la luce, quella essenza che tu vedi in scena e che è completata da tutte queste parti che formano un'unica creatura scenica. E viene prima la tua passione per la scrittura o la performazione, oppure si sono cresciute insieme? Ah, in realtà io devo dire che nasco da una scuola particolare, nel senso no, che fin da piccola in realtà assistevo a queste riunioni di poeti che mia madre faceva, ecco, a casa, e quindi sono stata così evidentemente contaminata, sì. e quindi un po' questa contaminazione è stata così, ha anticipato in realtà poi tutta questa scrittura che poi si è in realtà sviluppata tanto proprio con l'inizio del teatro. Sì, sì, sì, sì. E lì ha preso proprio la sua forma. Ma non incontri con recitazioni di declamazioni di poesie? Non ho capito. Erano incontri questi? Sì, erano incontri, chiacchieravano, parlavano, poi io ci stavo in mezzo da quando avevo 6 anni, quindi mi ricordo. Ogni tanto si recitavano poesie. Recitavano poesie, quindi insomma ho questi ricordi, ecco. E riferimenti letterari, ce n'è qualcuno in particolare, qualche poeta che ami più degli altri? Allora, oggi amo sicuramente due poetesse che per me sono straordinarie, e che una è la Maria Angela Gualtieri e una è Rosaria Lorusso, e certo non posso non dire mia madre, che è la De Jonas, che comunque è una poetessa, insomma. Però ecco, diciamo, sicuramente la poesia, la poetica della Gualtieri mi tocca profondamente, mm-hmm. come tocca tantissimo. Tra l'altro l'abbiamo ospitata in forma registrata in una dei vari appuntamenti di Poeti Italy di Simone Carella. Ah sì, carissimo Simone. Sì, carissimo, sì, sì. Simone. Ogni tanto manderemo tra l'altro delle puntate dei suoi Poeti Italy. Abbiamo cominciato, poi è successo quello che è successo, sì. Abbiamo già dedicato un'altra puntata alla sua creatura, perché poi Tidali è la sua creatura, e così faremo anche nel corso dei prossimi tempi. Sì, Simone mi ha visto piccola in realtà quando ero con Perla, e lui era lì, insomma, e quindi lo ricordo con veramente tanto, tanto piacere. Senti, poi ci racconti anche un po' il tuo percorso teatrale. Allora, se ce la fai. Sì, che sono malatissima in realtà, e quindi con quest'ultimo lembo di voce racconterò. Allora, sì, il percorso teatrale nasce ovviamente con Perla Peragallo, è la mia maestra, è stata la mia maestra, e nel suo mulino di Fiora, in cui sono capitata grazie al fatto che mi hanno buttata fuori da Silvio D'Amico e quindi grazie, li ringrazierò per tutta la vita, perché ho incontrato questo mostro sacro che è Perla. Quindi ho iniziato lì e lei mi ha veramente insegnato qualcosa di fondamentale nel teatro, che non è soltanto una rappresentazione, non è intrattenimento, non è cliché. È veramente sporcarsi le mani, andare a pescare dentro di sé la verità. E lei diceva: la vita la vivi, in teatro vivi l'essenza. E questo lo riconosco proprio, anche se poi il mio linguaggio, come poi il linguaggio di altri che sono stati con Perla, come Roberto Latini, insomma, hanno preso la propria strada, ma credo che ci sia proprio un incipit, no? Quel semino che lei ha messo e che ha dettato poi tutte le scelte future, anche personalmente molto drastiche, anarchiche, rivoluzionarie, eretiche, come dice il giornalista Cipriani. Tra l'altro hai citato Roberto Latini, anche egli fa un grosso lavoro sulla voce e sulle musiche nei suoi lavori. Sì. Sì, fa un grandissimo e bellissimo lavoro con Gianluca Misiti. Sì. E microfono, voce, insomma, è una delle sue caratteristiche. Insomma, ho avuto il piacere proprio, e ho il piacere di lavorarci adesso e dopo tanti anni nelle Metamorfosi, e sono stata veramente, veramente tanto contenta di far parte del team di Roberto, perché insomma poi è un carissimo amico. E quindi c'è stata questo inizio con Perla, poi sono stata un po' sono stata in compagnia di Leo De Berardinis per poco tempo, per un paio di anni, e dove ho incontrato, a parte lui che è un gigante della montagna umana, però una compagnia di grandissimi artisti, insomma, Sgrosso, Elena Bucci, Manchisi, Vetrano, Randisi, tutti i nomi, insomma, veramente che... Pensa, Sgrosso lo abbiamo sentito prima per un lavoro che farà adesso a Bologna su Chet Baker. Ah, ecco, vedi, beh, sono dei grandissimi, mi hanno insegnato tanto, perché poi i maestri, se si ha la capacità di vedere e restare in ascolto, sono tanti. E poi io continuo in realtà la mia ricerca, perché per me non si ferma mai il lavoro di ricerca, e dunque poi ho incontrato altri maestri, ho incontrato Claude Coldy, che è un danzatore coreografo che ha inventato la danza sensibile e mi ha cambiato anche la vita, perché sicuramente la vita poi teatrale, perché il suo è un lavoro eccezionale di radicamento nella presenza. E nella presenza del corpo, che secondo me ogni artista teatrante, insomma, dovrebbe avere. E dunque questo per me è stato un incontro con un altro maestro dopo Perla. E poi ho incontrato Kaya Anderson, che fa un lavoro strepitoso sulla voce, sulla ricerca vocale, non per forza cantata, proprio la voce dell'anima, e quindi non poteva che toccarmi il suo lavoro. È una donna, insomma, di 83 anni, e per questo sono veramente grata alla vita di averla incontrata, perché fa un lavoro strepitoso con la voce. Questi sono un po' in questo momento i miei, insomma, quelli che considero attualmente i tre maestri. E poi ci sono tutti gli altri incontri. Ho lavorato tanto con Rosanna Rossoni, che è una cantante bravissima, e quindi per 10 anni sono stata da lei, è stato molto bello, insomma, e gli incontri che fai, gli incontri che fai. E gli incontri che però non sono solo formativi, ma sono anche in scena, perché non lavori, lavori anche con altre persone quando prepari degli spettacoli. Sì, io in realtà sono un animale molto solitario. E forse questo un po' Perla me lo ha lasciato, perché ho una poetica, una mia poetica, quindi in verità lavoro molto molto da sola. Ho lavorato tanto con i musicisti, ho lavorato per tanto tempo con Marco Guidi, che ha composto le musiche, anche quella di Simone Veil che le avete mandato qualche anno fa, e ho lavorato con Stefano Scatozza, ho incontrato la storia, la vita artistica di Luigi Cinque, che sono stati per tanti anni, quando avevo 20 anni, 20, 25 anni, insomma un bel ingrediente nella mia ricerca. E attualmente, appunto, collaborando con Metamorfosi, ho incontrato altre persone, ho rincontrato Roberto, ma anche altri attori, Alessandra Cristiani, che è una danzatrice eccezionale, insomma Savino Paparella, che è proprio per me un grandissimo attore, e sono questi incontri, sì, nella vita artistica. Però ecco, in effetti sono un po' un animaletto solitario. E con i testi scritti, proprio i libri, materialmente, dicevi che questo da cui abbiamo tratto queste quattro storie è del 2014. Sì, è del 2014. No, non lo so, 2014, 2015. Sì, io queste cose me le scordo, me le scordo sempre. Per me il tempo è un cane randagio, come dice la mia bambina di Dalla pelle al cielo. E anche, quindi anche le pubblicazioni sono un tuo percorso? Sì, sono un mio percorso, ancora sicuramente meno diciamo lungo del percorso teatrale, però mi piace tantissimo scrivere. In realtà ho tantissimi inediti e scrivo sempre, ma anche nelle Metamorfosi di Roberto, lui è stato veramente grandioso, perché mi ha dato possibilità di scrivere Ecuba, Le Sirene, quindi di essere autrice in alcuni episodi. Questo libro di Polvere di Resurrezioni della Nema Press, che è stato un altro bellissimo incontro con Nerea De Giovanni, in realtà era dopo, invece l'altro libro di poesie di L'inquietudine della bestia, sempre di Nema Press. Poi c'è stato Dalla pelle al cielo, di cui avete sentito insomma uno stralcio, che è un romanzo, un grosso romanzo, perché sono 300 e qualcosa pagine, e che era stato editato dalla Vagliano. Adesso è mio e quindi vediamo un po', faremo delle cose con questo libro. Sì, e poi ecco, poi c'è e poi c'è l'ultimissimo, ecco, vedi che ecco, alla fine la cronologia ci arriviamo, è lineare, si ripresenta nel mio cervello, che è quello a quattro mani, scritto con Adriano Engelbrecht, e si chiama Ubicazione ignota, edito da Fidelius, e ecco, è proprio freschissimo. Lui farà, abbiamo fatto una lettura organizzata da Daniela Rossi a Bazzano per la sua serata poetica, e lui farà una lettura a novembre, insomma il primo novembre. Ecco, queste sono le pubblicazioni. Non è vero, vedi? Non è vero, perché c'ho anche l'altra antologia, che è Estasia, che è stata la prima antologia che ha fatto Editoria Spettacolo, dove c'erano in realtà i primi spettacoli. Vedi, dovrei mettermi la mia biografia davanti, perché come dice un mio allievo che si diverte tantissimo, io mi fanno le domande e io non mi ricordo. Si inventa, tutto inventato. No, scherzo. Ecco, a proposito di insegnamento, come funziona? È una cosa che ti gratifica? Sì, beh, sì, la trasmissione è una cosa che mi piace molto, che ho fatto quasi fin da subito, perché in realtà, finita la scuola di Perla, lei mi ha chiamato subito ad affiancarla, e poi insomma faccio appunto laboratori in tutta Italia. Adesso andrò a Verona, e mi piace moltissimo, e mi piace anche attuare un gesto politico all'interno di queste laboratori, che è una passare da una modalità in cui i ragazzi sono in competizione a una modalità di collaborazione e di condivisione. E questo infatti apro sempre i laboratori così, perché in realtà dà tantissimo, sì. Perché gli permette di scendere senza traumi e senza giudizi dentro di sé, per andare a pescare da quello che io chiamo l'archivio interiore quelle emozioni, quelle cose che poi andranno a servire i personaggi che loro faranno in scena, insomma. E per me è un grande insegnamento trasmettere, perché loro comunque sono anche loro dei maestri, non credo che bisogna avere la presunzione di mettersi su un piedistallo e... Beh, è sempre uno scambio, d'altronde. È sempre uno scambio, sì, è sempre uno scambio. Se si ha la capacità di vederlo, questo siamo molto contenti. Siamo molto contenti. Senti, passando ai ritratti, ai quattro ritratti che hai fatto prima, il filo conduttore brevemente ce lo hai accennato prima di cominciare, però come sei andata a pescare questi quattro diversi tipi di donna? Ma in realtà è facile, perché comunque lavoro sul femminile, è una delle mie linee guida, e quindi affronto tutti i personaggi così, insomma, ecco. Vabbè, Maddalena e Antigone ovviamente sono personaggi che straconosciamo, ma questo filo rosso mi piaceva, di tra virgolette eroine, mi piaceva estenderlo a quelle eroine di tutti i giorni che noi dimentichiamo, che non guardiamo, che proprio oggi tra l'altro c'è un'esecuzione in corso di una donna, di una sposa bambina, ci sarà un'esecuzione. E delle donne che tutti i giorni riescono a rialzarsi dalle loro difficoltà, dalle loro tentate umiliazioni, queste sono per me le grandi donne, no? questo filo che si può tessere in questa grande sorellanza. E soprattutto quello che mi interessava e mi interessa è farle uscire dal ruolo di vittima. Perché è vero che possono essere, che sono vittime di abusi, vittime di violenza, verissimo, chi più di me. Però mi piacerebbe che si uscisse da questa cosa, da questo ruolo dell'essere vittima. Si può non essere vittime, si può alzare la testa, si può creare un altro tipo di rapporti e si può pensare, si dovrebbe pensare che ogni vita ha la sua dignità. Poi ovviamente la estendo a tutti, perché insomma non è che faccio una separazione così, però c'è una dignità che possiamo vivere, c'è un diritto alla vita, e anche se sembra che siamo in un sistema che insomma si scorda di questo diritto alla vita e alla gioia, perché nel primo, per esempio, pezzo c'è un pezzo di Maddalena in cui insomma è un po' dura contro, ecco, anche contro un certo tipo di, contro la Chiesa, un certo tipo di religione che invece nega la benedizione iniziale che abbiamo quando siamo arrivati qui su questo pianeta a camminare. E invece una delle storie legate al quotidiano, l'unica in cui compare una figura maschile che interloquisce con la ragazza, è tutta legata a una violenza psicologica. Sì, in questo caso, in questa lettura sì, poi in realtà nel libro ci sono anche due altri testi dove ci sono figure maschili. C'è Naima Rubra, che è un testo che tra l'altro stiamo lavorando per portarlo poi in scena con Alessandra Cristiani e Paolo Grimaldi, e c'è anche Figli Cristi, e parlano di guerra in realtà, dove alla fine le vittime sono sempre tutti, perché nella guerra tutti sono vittime e tutti sono carnefici, è un bel gioco. E in questo caso, in questa lettura, abbiamo solo, è vero, ci sono due personaggi maschili, uno è il padre della ragazzina che però poi per chi legge il libro capisce che non è così semplice, non viene così non mi interessa di mettere alla gogna insomma il mostro, c'è una analisi molto, una ricerca insomma molto più approfondita che spero che si faccia. E poi c'è va bene, Creonte in Antigone, che noi sappiamo essere quello che rappresenta la legge, insomma la storia che conoscono tutti, insomma la legge, ora la dico molto banalmente, la legge contrapposta all'amore, però veramente questo è un amore con la maiuscola, ed è un amore che in questo caso, in questa Antigone così contemporanea, non può lasciare insepolti quelli che arrivano dal mare, perché per me Polinice, il fratello che non si vuole seppellire perché lui è giudicato, rappresenta un po' tutte le non sepolture o tutti quelli che rimandiamo via perché sono stranieri, non sono fratelli, no? E per me invece è diverso, perché l'altro sei te. Così. Sì. Oh, Ilaria, per saperne di più sulla tua attività ci lasci tutti i riferimenti? Sì, allora su Facebook ovviamente Ilaria Drago, sono due pagine, e poi è in costruzione il mio sito che sta costruendo la... Che ormai sono un po' desueti i siti internet. Sì, però sono più completi sicuramente. Sono completi, poi c'è questa bravissima Julie P, quella Diamonds, che mi ha preso proprio veramente in braccio, perché gli ho detto aiutami, salvami, rimettimi sul sito, e quindi lo sta rimettendo www.ilariadrago.it, sarà presto insomma visibile con tutti gli aggiornamenti, spettacoli. Adesso saremo tra l'altro a Torino, ecco, 5-6. A questo proposito ti volevo chiedere prossime date. Sì, le prossime date sono, faccio il concerto poetico su Simone Veil il 5-6 novembre a Torino, a Cubo Teatro. E poi ho dei lavori in corso, nel senso che il progetto Transhumans, che ha debuttato a Contemporanea prodotto dal Metastasio, continua, è un progetto a tappe, a capitoli, e quindi ho fatto il capitolo Mare, che è quello che ho letto, e avrà altri due capitoli, ma in realtà spero che sia infestante che diventi tanti capitoli, e questo attualmente ci sto lavorando, abbiamo poi una prossima data il 12 marzo, ma insomma è tutto in lavorazione ancora. Benissimo, e allora speriamo di averti nuovamente qui dal vivo in studio. Grazie Complimenti ancora, Ilaria. Grazie mille, un saluto a tutti voi. A presto. Ciao.